Nessun luogo. Nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. Io ho diritto all'informazione. Ho diritto alla verità. Ho diritto ad aver voce. Ho diritto a essere libero. Ho diritto a essere uguale a voi tutti. Ma ho anche il dovere di combattere per questi diritti. Stasera daremo battaglia su questo palco a suon di storie. Benvenuti a Nessun Luogo, live! Buonasera, benvenuti, ben ritrovati, fuori campo. Terza e ultima puntata, terzo e ultimo appuntamento. Siamo qui perché, dopo aver esplorato le dinamiche che attengono ai confini e alle città, parleremo di diritti. 70 anni fa, a Parigi, su impulso delle Nazioni Unite, venne creato quel nocciolo, quel cuore duro, forte, che doveva segnare in qualche modo la società moderna. Diritto alla libertà, all'uguaglianza, all'espressione, all'associazione. Cercheremo di capire oggi quali diritti e dove sono messi in pericolo, dove sono compressi, dove invece possono espletare invece tutte le loro virtuose conseguenze. Tra le metafore che stavamo curando in questi giorni ce n'è venuta in mente una, no? E un po' i diritti sono come delle piante, possono essere dei boccioli, ma possono essere delle querce secolari, però i diritti vanno sempre innaffiati. C'è un grandissimo rischio che se noi smettiamo di occuparci dei diritti e smettiamo di innaffiare, magari di potare qua e là, insomma di prenderci cura dei diritti, rischiamo la desertificazione. Allora iniziamo questo percorso, questo viaggio attraverso i diritti, diritti che non ti aspetti, anche diritti lontani, non semplicemente quelli redatti dalla carta, quella appunto redatta 70 anni fa. Iniziamo a mettere un po' di puntini sulle i. Per mettere i puntini sulle i, Tommy, avrei bisogno di te. Perché il primo ospite insegna diritti umani all'Università Cattolica di Milano, la professoressa Francesca De Vitor. Please, stand up. Get up, stand up. Stand up for your rights. Everybody, get up, stand up. Don't give up the fight. Professoressa, si accomodi. Mettiamo il grandangolo, come amo dire, perché prima di andare a esplorare e a raccontare storie di diritti, diritti soffocati, diritti espletati, diritti nascosti, diritti dimenticati, è bene fare una domanda che sembra banale, ma forse tanto banale non è. Che cos'è un diritto umano? Sì, no, tanto banale non è, assolutamente. Prego di avvicinare un filino il microfono. Ok, perfetto. Così? Anche più vicino. Più vicino ancora. Sì, perfetto. Vabbè. Vabbè, le direi che un diritto... Ha portato una professoressa proprio. Fra l'altro mi interroga dopo, vero? No, faremo, okay. faremo senso. Anche perché non abbiamo il tempo a quanto pare. Non no? Abbiamo tempo, dobbiamo essere velocissimi e comunque mi giustifico. Allora, mettiamo prof, via gli appunti. All'università si poteva fare. Allora, guarda, le direi che innanzitutto un diritto umano è appunto un diritto che è umano, cioè riconosciuto all'uomo in quanto tale. Cosa significa riconoscere un diritto all'uomo in quanto tale? Significa che è un diritto che è riconosciuto a prescindere da qualsiasi rapporto di appartenenza, per esempio a uno Stato, per esempio la cittadinanza, o a una determinata comunità. Questo dal punto di vista dell'essere umano, però il diritto umano è soprattutto un diritto. un diritto nel senso che non è una regola morale, una regola di bontà, una regola condivisa semplicemente da una singola comunità, è un diritto che è riconosciuto, riconosciuto in quanto tale. Cosa significa che è un diritto riconosciuto? Significa innanzitutto che si può farlo valere davanti a un giudice e significa in particolare nel caso dei diritti umani come riconosciuti nell'ordinamento interno di solito da norme costituzionali, nell'ordinamento internazionale, da trattati sui diritti umani o dal diritto internazionale consuetudinario, funge da parametro di legittimità delle altre norme che siano adottate. Qui entriamo in un terreno super spinoso, perché sto pensando al decreto Minniti, gli accordi con la Libia, sto pensando al ministro Salvini ultimamente, ma anche gli accordi con la Turchia, eccetera, questa esternalizzazione dei confini, in realtà paga dal punto di vista elettorale, almeno sul breve periodo, perché sappiamo che insomma tanti partiti in Europa hanno fatto tesoro di questo tipo di politica. Allora, i diritti devono seguire il consenso? No. Direi no. Però è quello che sta accadendo. È quello che sta accadendo, meglio, ci sono politiche che stanno seguendo il consenso. Consenso si basa non sempre su informazioni che sono corrette. Guarda, mi fa pensare a una cosa. Nella dichiarazione di New York sui diritti dei migranti, che è alla base di quel Global Compact for Migration, dal quale adesso l'Italia ha deciso di non partecipare più, ma insomma, c'è una regola interessantissima, la regola 17, che era una regola che diceva che i governi si impegnano a non promuovere forme di informazione sulla migrazione che non siano fondati su dati reali e oggettivi. Cioè si chiede al governo, se è stato necessario fare una dichiarazione per chiedere ai governi di fondarsi su cose vere. Stiamo parlando di dichiarazioni del tipo emergenza c'è un'invasione? Quelle? Stiamo parlando dei numeri che vengono dati in modo sbagliato, non corrispondente al reale, nel senso che a volte sono proprio numeri inventati, altre volte sono numeri di qualcosa che vengono dati indicando qualcos'altro. Grazie mille, professoressa Francesca Vitor, per essere stata con noi. Grazie. Mancava l'altro pezzo, to party, cioè bisogna divertirsi, è anche uno dei diritti, vabbè, speriamo vi state divertendo, grazie Gerardi, grazie, sempre pronto lui. Il prossimo ospite tecnicamente si chiama The Bunker, praticamente non dorme mai, cioè sta H24 in rete, cercando le fake news, smascherandole, andando a cercare le fonti originali, è con noi David Puente! David Puente, un piacere averti qua, accomodati, non viene dalla luna ma è quasi un marziano perché fa delle cose stranissime, quelle che noi tutti giornalisti dovremmo fare ma invece non facciamo mai, tipo verificare le fonti, no? Allora, David Puente, da poco imbarcato sull'avventura di Chicco Mentana Mitraglia Open. Il maratoneta. Diciamo che su questo punto di vista siamo abbastanza simili, perché se poi ci scriviamo alle 3-4 del mattino per sapere cosa è successo. Perché vi messaggiate alle 3-4 del mattino e lui è sempre sveglio. È capitato, io non so come fa, ma penso di non sapere neanche come faccio io. O fa una maratona o si sta preparando per la maratona. Cioè lui cosa fa per allenarsi? Non dorme. Davide, allora, scherzi a parte, abbiamo un problema. Cioè ne abbiamo un sacco, diciamo, però... Il problema qual è? Che le fake news che si propagano in maniera virale sui social network, perché i social network sono alla portata di tutti, anche dei non professionisti dell'informazione, e a volte però finiscono sui media tradizionali, vengono rilanciate, vengono riprese, un po' perché c'è la fretta di arrivare sulla notizia, un po' perché i giornalisti sono sempre meno, un po' perché siamo anche un po' pigri ogni tanto, insomma, fatto sta che, dicevo, ogni tanto ci pigliamo dei grandissimi scivoloni. Come siamo arrivati a questo punto? Beh, guarda, in verità le bugie sono sempre esistite. Quindi quando stiamo cercando sempre, in qualche modo stiamo sempre cercando di dare la colpa a internet, quando in verità internet è semplicemente un mezzo, come può essere la televisione, come può essere la radio, come possono essere tanti altri mezzi di informazione. La differenza è che magari internet ci ha obbligati un po' a essere più veloci, e quindi questa velocità, questa voglia anche di arrivare, questa necessità di arrivare per primi nella notizia, e magari questa notizia non c'è, o magari è alterata, insomma, ci porta a commettere degli errori madornali. Io quando leggo una notizia online devo combattere spesso con me stesso per capire ma è vero o non è vero, e a volte mi tocca anche sbuffalare anche il pensiero che mi sono fatto io stesso su quella notizia, perché sul momento cosa succede? La mia emozione, la mia situazione che mi coinvolge di fronte magari a un titolo o quant'altro, mi porterebbe a commettere l'errore. La stessa cosa che può fare un giornalista, che ha il dovere di informare, e ha una persona che legge la notizia che avrebbe il diritto di essere informato in maniera corretta. Allora, ci sono dei temi che, come dire, sono come il miele per le api sulle fake news, no? Uno è, guarda caso, immigrazione, l'altro violenza sulle donne, furti in casa, insomma tutte quelle cose che ti prendono la pancia, no? E alla fine c'è una ricetta per, come dire, la fake news perfetta. Su cosa devo lavorare e come devo lavorare? Allora, di solito quelle in cui ci caschiamo di più sono quelle che appunto ci colpiscono lo stomaco, cioè quando proprio siamo emotivamente coinvolti, perché quando capita l'emozione non capiamo più niente, siamo completamente al di fuori della razionalità. Quindi anche, per esempio, io mi ricordo che a Udine, la città da dove vengo, era, diciamo, nel nord-est era stato diffuso un messaggio via WhatsApp, quindi stiamo parlando sempre in ambito dark social, quindi oltre a Facebook e quant'altro ci sono anche le messaggistiche, e c'era questa storia di questo poliziotto di Padova che avrebbe detto che nel nord-est ci sarebbe stato un attentato terroristico da parte dell'ISIS nei centri commerciali nord-est, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, insomma ce ne sono tantissimi. Io ero quel sabato, mi ricordo che ero lì, e mi arrivano i messaggi dicendo ma David, ma la mia ragazza lavora al centro commerciale Città Fiera di Udine, cosa faccio? Dico che vada via? E io, perché? No? Perché mi è arrivato quest'audio, eccetera? A quel punto io mi sono reso conto che insomma era un po' troppo vuoto rispetto al solito al centro commerciale, la gente aveva paura, perché si era svuotato realmente, non si presentavano, e c'erano alcune persone che avevano proprio paura di star lì dentro, i dipendenti, e ho detto ma cosa succede? Lì cosa succede? Che si erano fidati di una persona. Chi è quella persona? L'amico che ti ha condiviso l'audio, l'amico che ti ha voluto avvisare, e su una fonte, tra virgolette, autorevole di un presunto poliziotto, comunque direttore della polizia, quello che è, di Padova. Quindi io ho dovuto mandare il messaggio alla polizia di Padova, il quale mi ha detto questa cosa non esiste. Come possiamo difenderci noi? Dobbiamo imparare a affrontare noi stessi e a reagire in maniera corretta di fronte a un momento che può essere appunto quello della condivisione compulsiva. Perché quindi di solito spiego anche nelle scuole, spiego ai ragazzi: avete davanti lo smartphone, state scrollando Facebook o il social che insomma usate, vedete un'immagine che è accattivante, leggete un titolo, un commento che è particolare, che vi prende, e magari state attenti eventualmente a chi l'ha condiviso, perché spesso esistono anche i cosiddetti siti fasulli, e quelli magari, non so, c'era uno famosissimo che era il Giomale. Il Giomale, il certo. Giomale. Allora, sì, perché il lettering in realtà, se lo leggi in fretta, è uguale a ilgiornale.it invece, esatto. Ilgiomale.it. Infatti su Facebook la gente condivideva a manetta perché pensavano che fosse la vera testata giornalistica certo. Milanese, invece no, era il Giomale. Ovviamente poi tra l'altro ho dovuto cambiare nome perché mi sa che gli è arrivata una letterina di avviso. Ah, è arrivata, perché, quindi ogni tanto, sì, okay, ogni tanto qualcosa funziona, okay. Ecco, poi è diventato, mi pare, il Corriere della Notte, ma non ce l'ha fatta. Beh, dopo. Beh, il Corriere della Notte, non è male, insomma, è un tramonto proprio dell'informazione, il Corriere della Notte. Con questo messaggio salutiamo David Puente, grazie mille, David, per essere stato con noi. Ho ancora gli appunti della professoressa De Vitor qua sul tavolino. dopo glieli rendo. O magari li uso per fare una fake. Adesso ci penso un attimo. Con David mi consulto, vediamo cosa possiamo costruire e architettare. ma adesso voglio farvi sprofondare nel baratro del pessimismo, perché la verità non basta a se stessa. Non lo dico io, lo dice il prossimo ospite, che è un alfiere della verità, baluardo della scienza, fiero sostenitore del principio di causa-effetto, per cui se io dico Stefano Morigi viene, lui viene. Stefano Morigi! So che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, e lo so perché. Stefano Morigi, benvenuto, che piacere. Parliamo di cose serie. Stefano Morigi, perché intanto non rispetto la nomenclatura accademica, insomma ti do del tu, perché ci conosciamo, certo. Insomma. Allora, il diritto alla verità. E uno dice, facile, no? Diritto alla verità, noi tutti abbiamo il diritto alla verità, i giornalisti ci mettono del loro, David Puente ci mette pure del suo, però è un diritto un po' strano. Secondo me sì, se non altro perché prima di parlare del diritto alla verità dovremmo metterci d'accordo su che idea di verità vogliamo tutelare col diritto. Non dico che dobbiamo sapere che cos'è la verità, troppo complicato, ma perlomeno che idea di verità abbiamo in testa. Abbiamo bene o male fino adesso discusso, anche con Puente poco fa, di un'idea di verità che, se mi passi la semplificazione, potremmo riassumere in questi termini: una notizia controllata e dunque attendibile, una definizione, una nozione che corrisponde in maniera adeguata ai fatti, per i fatti così come sono. Ma questo basta? Questo è sufficiente? Prova a immaginare di entrare in una classe scolastica, no? Di quelle tradizionali che hai frequentato anche tu qualche tempo fa, io pure, e mettiti nel ruolo di un alunno, di uno studente. Lo studente è lì nel suo banco, a un certo punto entra una figura che gli hanno spiegato essere l'insegnante, e l'insegnante perché sta dall'altra parte della cattedra? Perché si suppone sappia qualcosa in più dell'allievo. Questo insegnante comincia a parlare, parola terrificante usata nel contesto scolastico, trasmette delle nozioni, dei concetti, delle formule, e che cosa fanno gli allievi? Devono o prendere appunti o registrare, insomma, fanno un po'. Comunque assimilano, altra parola terrificante in contesto educativo, vanno a casa, ripetono, quando va bene ripetono, talvolta qualcosa rimane, poi tornano a scuola, l'insegnante che cosa fa? Li interroga e questi devono ripetere più o meno quello che l'insegnante ha detto loro o che hanno trovato scritto sul libro. Questo meccanismo riproduce quell'idea di verità da cui siamo partiti e attorno alla quale io mi sono chiesto, basta? Secondo me, l'avrete capito, non basta. Perché non basta? Potremmo dirla in tanti modi, io provo a dirla nel modo più terra terra. Non basta perché non mette lo studente o la studentessa del caso nelle condizioni di controllare se quello che l'insegnante ha detto è vero o falso, è attendibile o non è attendibile. Cioè sperimentare, toccare con mano la verità. Sì, ma insomma, se in una istituzione come la scuola non metto gli studenti nelle condizioni di controllare l'attendibilità di un docente, reintroduco quel principio di autorità che nel mondo della conoscenza non dovrebbe esistere. Nel 1936 Einstein, che di esperienza della verità un po' se ne intendeva, ecco, scrive un brevissimo saggio, che peraltro mi permetto di consigliare a tutti, non c'è nessuna formula, quindi, che si intitola On Education, lo scrive in inglese, dove la parola educazione non ha nulla a che vedere nella mentalità di Einstein con quell'istruzione che riempie gli studenti di nozioni come se fossero dei vasi. E dice, la scuola certo deve, parla della scuola, non dell'università, la scuola certo deve produrre cultura, ma che cos'è la cultura che la scuola deve produrre? Dice, ma secondo me la cultura che la scuola deve produrre può essere definita con una battuta di un comico che andava abbastanza per la maggiore all'epoca di Einstein. E questo comico diceva che la cultura è tutto quel che rimane quando hai dimenticato quello che hai imparato a scuola. Cosa rimane? Niente? Auspichiamoci anche che non rimanga nulla delle nozioni trasmesse, ripetute, assimilate, come si diceva una volta, mandate a memoria. Cosa auspica Einstein che rimanga? E quindi che cosa è per Einstein la cultura della scuola? Esattamente quell'educazione al pensiero critico che ci mette nelle condizioni di poter scegliere, decidere, selezionare un'informazione, una scelta di vita, piuttosto che orientarsi in maniera consapevole su un problema scolastico o addirittura, ancor meglio, extrascolastico. Perché la scuola, dice Einstein, non deve produrre la radice quadrata di un intellettuale, deve produrre un cittadino, e allora non lo deve riempire di nozioni. Quello è un indottrinamento, gli devi dare lo strumento per poter scegliere liberamente. E quello strumento, diciamo così, un certo tipo di educazione scientifica, non nel senso delle discipline, ma della mentalità che sta sotto la scienza, sì, aiuta. Stefano Morigi, grazie per essere stato con noi. Nessun luogo è lontano. Pronti al nuovo anno? Saremo sempre qui a raccontarvelo. L'Europa al voto. La BCE che cambia. I campioni dello sport. Gli equilibri internazionali nel Mediterraneo e la Libia al voto. E poi cos'altro ci attende? Fatti, notizie, approfondimenti. A partire da subito per essere già pronti. L'anno che verrà, dopo il giornale radio delle 7 e delle 13, su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Proseguiamo in questo viaggio con i Why Not, che danno un'anima rock a questa ricognizione sui diritti umani, diritti più in generale, diritti che non ti aspetti, diritti a volte lontani, diritti esercitati, diritti compressi. Poi c'è un diritto su tutti, forse, che è il diritto alla giustizia. Un processo, il processo, e poi delle sbarre. In molti paesi informare sta diventando un reato. In molti paesi il diritto all'informazione viene negato. Però succede che questi paesi sono molto molto vicini a noi. Per esempio, intratteniamo floridi rapporti commerciali con quei paesi. Per esempio, facciamo un accordo per la gestione della questione immigrazione. Per esempio, quel paese è la grande porta dell'Oriente verso l'Europa. Ad esempio, la Turchia. Secondo il Committee to Protect Journalists, che dagli anni 90 monitora lo stato di salute dei giornalisti in vari paesi del mondo, il 2016 e il 2017 sono stati gli anni neri per la Turchia, perché ha detenuto il record del maggior numero di giornalisti incarcerati senza motivo. È la negazione per i cittadini del diritto a essere informati su quello che accade non solo all'estero, ma anche nel proprio paese. Il 2017 ha visto 262 giornalisti incarcerati in tutto il mondo, di questi 72 solo in Turchia. E la Turchia è un passo da noi, quella Turchia che è membro della NATO, quella che doveva entrare nell'Unione Europea. Ecco, il declino vero è iniziato nel 2016, luglio 2016, il golpe. Qualcuno ha detto l'autogolpe, insomma, chi si è occupato di cronaca estera sa che, insomma, c'erano delle cose che scricchiolavano un filino, no, nella narrativa di quel golpe. Beh, è stato una grande leva, è stato un grande destro per il regime di Erdogan per incarcerare, appunto, decine di giornalisti, ma non solo, accademici. Qualsiasi critico nei confronti del regime è stato incarcerato, parliamo di migliaia e migliaia di persone. Ecco, teniamo presente che quando noi mettiamo a tacere il cane da guardia, quel vigoroso cane lupo che dovrebbe essere il giornalista, e lo rintaniamo nella sua cuccia o lo mettiamo dietro queste sbarre, stiamo celebrando a tutti gli effetti un funerale. che non è solo il funerale dell'informazione, ma il funerale della democrazia. E il prossimo ospite dirige, recita, scrive, parla, twitta, si impegna, tocca poteri forti, quelli un po' criminali, un po' pericolosetti, e con grande piacere che accolgo sul palco Giulio Cavalli! Giulio Cavalli! Ciao Giulio. Con te volevamo affrontare un diritto. Il primo è il diritto alla denuncia, quindi il diritto a scoperchiare tematiche forti, e l'altro è il diritto alla parola, nel senso di usare le parole giuste per raccontare i fenomeni giusti, no? E prima stavamo chiacchierando al volo e stavamo ricordando come, tu ti sei occupato fra le altre cose di 'Ndrangheta, solamente nel 2009-2010 nei documenti ministeriali e parlamentari si è usata la parola 'Ndrangheta. Prima no, ma prima del 2010 non c'era la 'Ndrangheta. Ma io penso che sia un giochetto che funziona molto, nel senso non li nomino e così non esistono. Quando a un certo punto sono talmente evidenti che dobbiamo dargli un nome per identificarli, perché il mio paese si riempie di sedie e io devo inventarmi la parola sedia. Okay? E allora hai detto gli... sedia comunque. Ho detto okay. Sedia. E allora gli do un nome, no? E quindi in realtà è perché il fenomeno ormai è talmente potente che non trovo altro. E poi, come ci dicevamo prima, io ho il sospetto che la parola criminalità organizzata o criminalità organizzata sia rassicurante. Primo perché ha questo sottofondo, se ci pensi, questo retrogusto di ordine. Ma comunque organizzata. Dici. Cioè non è che la trovo in giro per strada, no? Capito? Paolino Rossi dice sempre la criminalità organizzata, l'antimafia molto meno. Dice. E no, però... questo. Poi perché sai, nel momento in cui specifichi l'esistenza di una nuova criminalità organizzata, e allora hai bisogno di studiarla, hai bisogno di dare risposte, hai il dovere nel momento in cui sei istituzione o classe dirigente comunque di conoscere le risposte o comunque di dover rispondere a dei dubbi. E quindi diventa tutto molto complicato, no? Nell'epoca della banalizzazione, immaginarsi che ci sia solo una mafia, e non è tanto se ci pensi nemmeno che si usa la parola mafia, prima era la mafia, no? Cos'è successo? La mafia. Era così. Sono arrivato in ritardo, andavi dalla maestra, dicevi, non ho studiato perché c'era, ieri sera la mafia mi ha fatto... Era una cosa, no? E quindi e noi siamo un paese che detesta la complessità, sempre. Anche sui temi della criminalità organizzata. Raccontiamo la manovalanza come se fosse classe dirigente. Raccontiamo le scorte, che sono un accidente e tra l'altro così anche nemmeno troppo interessante. Sono il grande fratello, no, della criminalità organizzata e delle mafie. E poi ci dimentichiamo i pezzi fondamentali. I pezzi fondamentali sono: uno, noi non riusciamo a parlare di mafie e di fragilità, ad esempio. In realtà all'interno della criminalità organizzata c'è una buona fetta dell'esercito della criminalità organizzata che è stata istruita per non avere il coraggio di esporre le proprie fragilità, no? O meglio, io ho fatto tante amicizie in questi anni. Ho conosciuto molti... collaboratori di giustizia, molti pentiti comunemente, e ho conosciuto persone che hanno delle storie che sono dei pozzi, e a volte mi capita di dire ma dovrebbero invitare loro, no? Perché sono fragilità che in realtà sono state rinchiuse nella violenza e nella ferocia perché era la loro unica protezione. La 'Ndrangheta è mamma perché quello è l'unico mondo possibile. E nel senso iperprotettivo di non farti, nel caso materno più pulito e non inquinato, correre rischi, la 'Ndrangheta è mamma ed è chioccia perché non ti fa accorgere di cos'altro c'è oltre la 'Ndrangheta, no? usare parole che non ti aspetti per descrivere fenomeni magari noti, no? Per grattare un po' la superficie, lo stereotipo, fragilità associato a un andranghetista, è la prima volta che lo sento. Grazie mille, Giulio Cavalli, per essere stato con noi. Grazie Giulio. We don't need no education. We don't need no force control. Allora, andiamo avanti in questo viaggio, eh? Stiamo andando verso la seconda parte, stiamo per concludere, ancora due ospiti. Molto spesso diritti e doveri vengono codificati, e vengono codificati in comandamenti, per esempio. Vediamo se vi ricordate questi 7 comandamenti che sono stati pronunciati in questa fattoria, e io vi lascio nelle sue zampe. Compagni, com'è fatta questa nostra vita? Ammettiamolo, è infelice, gravosa e breve. Nasciamo, ci danno quel poco di cibo che ci serve per rimanere vivi. Chi fra noi è in grado di lavorare viene costretto a farlo, finché gli rimane un briciolo di energia. E poi nel preciso istante in cui la nostra utilità viene meno, ci macellano in maniera spietata e crudele. Una volta compiuto il primo anno di vita, nessun animale d'Inghilterra conosce il significato delle parole felicità e riposo. Nessun animale d'Inghilterra è libero. Tutti gli animali vivono in sofferenza e schiavitù. Ma ciò fa parte semplicemente dell'ordine naturale delle cose. No, compagni, no. Mille volte no. Non è dunque chiaro come il sole che tutti i nostri mali scaturiscono dalla tirannia dell'essere umano? E tu, compagna, quei nastrini che ti stanno tanto a cuore sono il simbolo della schiavitù. Ma non capisci che la libertà vale più di quei nastrini? I nastri vanno considerati come indumenti, cioè come il segno distintivo dell'essere umano. Tutti gli animali devono andare in giro nudi. Vi do questi 7 comandamenti. Primo, tutto ciò che va su 2 gambe è nemico. Secondo, tutto ciò che va su 4 gambe o possiede ali è amico. Terzo, nessun animale vestirà abiti. Quarto, nessun animale dormirà in un letto. Quinto, nessun animale berrà alcolici. Sesto, nessun animale ucciderà un altro animale. Settimo, tutti gli animali sono uguali! Te la ricordate quella storia, no? Però in realtà in quella fattoria lì, il 7° comandamento, tutti gli animali sono uguali, non è andata proprio così. Perché a un certo punto Napoleone e gli altri hanno deciso che alcuni animali erano un po' più uguali degli altri. E quindi teniamocela a mente. Nessun luogo è lontano. Radio 24 festeggia con voi, con l'attualità, gli approfondimenti e tante storie da raccontare. Assieme ci ricorderemo quali sono stati i temi più importanti del 2018 e proveremo a capire gli scenari del 2019 nella politica, nell'economia, nell'innovazione e nello sport. Viaggeremo, scopriremo nuove ricette, racconteremo ai nostri figli perché ci piacciono le feste e chi ha inventato gli auguri. Radio 24, anche a Natale, si sceglie, si ascolta. Padre non gli concedeva niente, assolutamente niente, alzava gli occhi al cielo, rassegnata. Quel passato non riesce ad essere cancellato. Siamo agli Scopeti, il luogo dove c'è stato l'ultimo duplice omicidio attribuito al mostro di Firenze. Sì, nella notte tra l'8 e il 9 settembre dell'85. Le voci dei luoghi, le parole dei protagonisti. Ci sono storie che solo dall'interno si svelano del tutto. Ed è negli intrecci di queste vite che ora porto il mio microfono, dentro i racconti di storiacce. Racconti di vicende che meritano di essere conosciute e che aspettano anche le vostre segnalazioni. Raffaella Calandra conduce Storiacce, i racconti, in onda ogni domenica alle 21 e in podcast su radio24.it. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Andiamo avanti con un fotografo. E qua si innesta anche una domanda molto molto filosofica, il destro me l'ha dato Stefano Morigi chiacchierando qualche tempo fa di questa puntata, perché come fa un fotografo a rappresentare i diritti? È un casino, perché deve lavorare sulla violazione dei diritti, quindi sull'assenza del diritto, e quindi deve rappresentare qualcosa che non c'è, cioè cerca qualcosa che c'è ma deve rappresentare la sua assenza, e mi sembra una bella sfida. È con noi Federico Borella. Federico Borella, giovane fotografo, talentuoso, rappresentato da Parallelo Zero. Ormai stai guardando anche tu gli appunti. Sì, capire, no? Ormai no. Sono lì, però. Sì, sì. Però, professore, si chiama Tormentone per quello. Cioè, sì. Se lo dici 3-4 volte fa ridere, no? L'ho detto già 4 volte, basta. Ok. Federico Borella, sei andato in India per raccontare questa storia. Ed è una storia che attiene a tanti diritti. Perché attiene al diritto a un clima giusto, clima in senso atmosferico, diritto al lavoro, diritto alla vita e diritto alla dignità. Sì. Assolutamente. Diritto, raccontaci un po' meglio. Diritto al lavoro e non del lavoro, questa è decisiva. Allora, io a gennaio di quest'anno, quindi praticamente un anno fa, trovo questo interessante articolo del Proceeding of National Science Academy, scritto da una ricercatrice californiana che si chiama Tamma Carlton, che per la prima volta ha messo in correlazione i cambiamenti climatici con i suicidi tra i contadini indiani. E ha analizzato i dati degli ultimi 47 anni. Ok? Praticamente che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che, secondo i suoi, tra l'altro abbastanza, come puoi immaginare, complicati studi, ha analizzato una serie di periodi dell'anno, perché come tu puoi immaginare, come potete immaginare, c'è un periodo di raccolta, è un periodo di semina, è un periodo di riposo del terreno. Ecco, nella cosiddetta growing season, cioè dove il raccolto dovrebbe essere il più forte, dovrebbe crescere in assoluto, il numero dei suicidi schizza alle stelle. Perché le motivazioni sono tante e non è direttamente, diciamo, collegato con il fa caldo, quindi mi suicido, ok? È proprio, la cosa triste è proprio quella, è proprio una catena. Cioè il cambiamento climatico porta al cosiddetto fallimento dei monsoni. Nel Tamil Nadu, lo stato dove sono andato io, e dopo vi spiego il perché, perché ho scelto il Tamil, il monsone, quindi è sulla costa est dell'India, il monsone arriva o dovrebbe arrivare intorno a ottobre, novembre, ok? Negli ultimi 2 anni è arrivato, ma come dicono loro è arrivato molto scarico, quindi non ha portato una quantità di acqua sufficiente, i raccolti sono completamente morti. Cosa succede questo? Che innesca un meccanismo terrificante in cui il contadino, non potendo usufruire del proprio raccolto, non potendolo vendere, tra l'altro solo ed esclusivamente con prezzi, sì, dicevi esatto, prima, che sono ormai bloccati da 50-60 anni, dagli anni 60 praticamente, parlando prezzi con loro, di mercato, ma è un mercato antichissimo, assolutamente, e tra l'altro praticamente con un monopolio statale, cioè loro vendono a ditte statali che poi rivendono sul mercato, ok? Vi potete immaginare la maggiorazione dei prezzi. Ecco, e quindi arriva scarico il monsone e loro non hanno raccolto, loro non hanno il raccolto, cash, cioè non hanno soldi. Non hanno i soldi, non hanno il contante, vanno nelle banche, delle banche specifiche per agricoltori, tra l'altro, si indebitano e così via l'anno successivo e l'anno successivo ancora. Finché, e qui la costante, è quasi sempre il capofamiglia che decide di togliersi la vita, perché è quello che tiene insieme la struttura, la fibra. E che ha la responsabilità. E no? Che ha soprattutto la responsabilità morale, esatto, culturale della famiglia. Assolutamente. E tra l'altro come lo fanno? Fanno in una maniera agghiacciante. Cioè io ho personalmente conosciuto 4 storie, quindi 4 famiglie con relative vedove, ovviamente. Sì. Di cui abbiamo visto alcuni ritratti, di no? Cui abbiamo visto assolutamente, sì. Come lo fanno? La prima, al pronti via, la prima che ho conosciuto, mi hanno detto, guarda, mio marito un anno fa circa si è suicidato bevendo del pesticida di fronte alla banca che gli aveva concesso il prestito. Okay. Quindi voleva essere anche un'azione clamorosa. Assolutamente sì. E gli altri decidono di impiccarsi nel loro campo. Infatti, proprio questa immagine che è appena passata esattamente. Sì. Lì dove vedete quella specie di recinzione di. Ecco, lì sorgeva l'albero da cui su cui suo marito ha deciso di impiccarsi. Prima abbiamo visto un'altra immagine, sì, che era un altro bel cazzottone, che era quel teschio. Sì, assolutamente. E allora, mi raccontavi prima che quel teschio è quasi diventato un vessillo, una forma di denuncia, un simbolo. Sì, perché come ho conosciuto io questa storia? L'ho conosciuta perché leggendo vari media, cioè mezzi di informazione indiani, mi sono accorto che ormai un anno e mezzo fa proprio i contadini del Tamil hanno deciso di marciare in maniera simbolica, nel senso che sono andati fino a Delhi, per chi non avesse dimestichezza, no? Con la geografia indiana, è un bel viaggio. Sì, sono proprio migliaia di chilometri, perché uno è completamente a sud e Delhi invece è nell'India del nord, per protestare in una piazza. Ci sono rimasti un centinaio di giorni e per protestare hanno portato quelli che loro dicono essere i teschi dei suicidi. Sì. Di che numeri? Cioè, chiaro, immagino anche verificare se fosse vero, se sia vero è difficile, però resta intanto la potenza di queste immagini, evidentemente immaginate, ma anche il valore simbolico, no, di questa marcia, certo, questa marcia dei teschi per protestare per il giusto diritto al lavoro. Sì. Mi interrompo, io ci sono andato a maggio, e ci sono andato a maggio perché maggio è uno di quei cosiddetti mesi della stagione di crescita, no? Quindi mi sarei aspettato un rigoglioso proliferare, no, di colture, e invece no. Invece non era proprio deserto. Così, c'erano quasi 48 gradi alle 11 di sera. Che queste immagini, insomma, ci fanno capire. Pensate che quello che avete appena visto è il letto di uno dei fiumi più grandi dell'India, che è il Kaveri River, che è completamente attraversabile a piedi da sponda a sponda, ok? E ti dicevo, io ci sono andato a maggio e quindi non sapevo che cosa sarebbe successo nel monsone di adesso. Ecco, triste notizia, molto attuale. Lo stesso teschio che abbiamo visto qui è stato riportato in dimostrazione anche 2 settimane fa. Per cui la situazione, ecco, non è cambiata. Senti, per dare una dimensione a questa storia che è tragica, ma a numeri non importantissimi a livello assoluto, ma stiamo comunque parlando di morti, di cose. Tu mi dicevi prima, fanno una 30 di morti, di suicidi al giorno. Allora, poi l'India è una federazione divisa in vari stati. Ecco, nello stato in cui questo problema è tristemente noto, che è il Maharashtra, dove c'è Mumbai, all'anno sono quasi 3.600 i casi. Poi, come puoi immaginare, c'è un grande sottobosco, certo, di non detto, perché poi, certo, il suicidio nella cultura indiana è da sempre considerato riprovevole, grosso disonore, eccetera, eccetera. Ed è da poco che nel registro del crimine, sotto la causa di morte, viene scritto suicidio. Quindi abbiamo dei dati un po' così. Lo studio di questa ricercatrice ne ha correlati 59.300, se non sbaglio, e negli ultimi 47 anni, se non vado errato. Però da quello che mi sembra di capire sono stime che vanno per difetto, evidentemente, perché c'è una serie sicuramente, di... Sicuramente, sì, sì. Grazie mille. Federico Borella! Ultimo ospite, ultimo diritto che non ti aspetti, è il diritto ad aver voce quando in realtà normalmente non ce l'hai. Perché prima dei 18 anni non puoi votare, non puoi guidare la macchina, però magari c'hai coscienza politica, magari fai cose, magari hai vissuto in vari paesi del mondo e magari qualcosina da dire ce l'avresti. A 17 anni è nata Islamabad, si è trasferita a Teheran, adesso vive a Venezia, parla italiano, inglese e urdu. È con noi Khadija Tofik. Fai parte di questa comunità che si chiama Way Youth. Way Youth, sì. Ok. Diciamo che Way Youth è una rete di studenti, non solo studenti, siamo una rete di mentori peer-to-peer, in cui cerchiamo di coinvolgere ragazzi della nostra età, dei più piccoli, ragazzi delle scuole, nelle grandi sfide del mondo, dell'oggi e del domani. È una cosa più per far sapere a loro che hanno una voce e che devono essere informati sulle cose che succedono intorno a loro. Quindi cambiamenti climatici, sì, tantissimi temi, immigrazione, l'economia. Esattamente. Rispetto ai quali normalmente voi non avete tantissima voce, se devo dirla tutta. Tu ti senti, rispetto a questi temi, come dire, ti senti di essere ascoltata oppure ti senti un po' in difetto? Beh, diciamo che ascoltata sì, ascoltata sempre, solo che la mia voce viene tenuta in una dimensione diversa da quella degli adulti, perché sono delle idee che vengono da una ragazza, una studentessa, è una bellissima idea, ma comunque rimane un'idea, rimane una voce un po', sì, lì. Quasi di serie B. Esatto. Anche un po' troppo utopistico. C'è questo ostacolo tra quello che pensiamo noi ragazzi e poi quello che effettivamente è quello che crediamo noi, perché per noi le nostre idee sono fattibili, cioè in queste io mi specializzo, diciamo, uh-huh, nelle simulazioni delle Nazioni Unite, del G7, e noi puntiamo molto sulla sostenibilità delle soluzioni ai problemi che vengono proposti. E quindi quando noi proponiamo queste soluzioni, davvero ci crediamo che sono fattibili e possono essere fatte. E però c'è questo ostacolo che non può essere superato, che noi non riusciamo a superare, perché diciamo, sono soluzioni così ovvie, e però non vengono messe in atto. Però non sono l'unica, perché ho tanti compagni di classe, tanti amici che tra di noi parliamo veramente di cose, dopo noi cambieremo questo, questo e quest'altro, ma sì, ci sentiremo, tu in Italia e io in Pakistan. Mi piace molto questo messaggio. Khadija Tawfiq, grazie per essere stata con noi, grazie mille. Grazie. Nessun luogo è lontano